cos'è quest'estate di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno a Ferragosto, spiaggia mia, non ti conosco, perché che cosa sta avvenendo? Ecco, vogliamo capirlo, nelle spiagge italiane c'è un certo nervosismo, le proroghe delle concessioni, la direttiva Bolkestein, insomma è di nuovo scontro tra Italia e Unione Europea. Perché? Perché 30.000 imprese italiane che avevano le concessioni prorogate automaticamente rischiano di non vedersele più prorogate. La direttiva Bolkestein dell'Unione Europea tutela la libertà di stabilimento, i principi di non discriminazione e la concorrenza, e quindi contesta questo rilascio delle concessioni automaticamente. Ne parliamo con Anna Giacobbe, deputato del PD, e con Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d'Italia. Anna Giacobbe, cosa succederà? Perché era atteso in Consiglio dei Ministri, l'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva, qualcosa, un regolamento, una messa all'asta, insomma, e invece non è successo nulla. Cosa bisogna attenderci in autunno sulle spiagge? Intanto, buongiorno, abbiamo fatto un passo importante in Parlamento, abbiamo emendato un provvedimento che avevamo, quello sugli enti territoriali, che ha prorogato le concessioni in atto fino all'emanazione della nuova normativa. Questa è la nuova normativa che dovrebbe essere adottata, proposta dal governo e poi discussa dal Parlamento, e noi dobbiamo tenere conto di un quadro europeo sicuramente, ma anche degli spazi che in quel quadro ci sono, e cioè la possibilità di dare un periodo transitorio. La lunghezza di questo periodo transitorio è come dire, oggetto di una trattativa con la con l'Unione Europea, e valorizzare sia la professionalità che gli investimenti delle imprese, tenendo conto appunto di diversi interessi. 30.000 imprese però contestano di essere sempre sotto schiaffo rispetto all'Italia, rispetto all'Europa. È così, insomma, il fatto che poi queste concessioni vengano regolamentate in maniera diversa potrebbe favorire magari dei grandi imprenditori esteri e quindi mettere in ginocchio 30.000 imprese. Ma le preoccupazioni sono assolutamente comprensibili ed è giusto che le imprese, queste imprese abbiano certezza, perché questo aiuta anche loro a svolgere bene il loro lavoro. Loro naturalmente gestiscono un bene pubblico, ma lo possono valorizzare, lo stanno facendo molte di loro. La tutela delle coste è un argomento, no? È un tema sul quale queste imprese possono dare una mano anche all'interesse pubblico, quindi vanno rassicurate. Credo che sia giusto farlo. Naturalmente noi non possiamo prescindere da un quadro, purtroppo abbiamo avuto anche questa recente sentenza che ce lo ha confermato, ma l'intenzione è davvero di dare valore alle imprese che hanno investito, ce ne sono molte, e che ci aiutano anche non solo a garantire l'accesso al mare, che è una cosa che deve essere garantita per tutti, ma a farlo anche in modo ordinato e in modo appunto che tutela un bene pubblico. In questo momento c'è uno scontro, in questo momento c'è una trattativa con l'Europa, e credo che su questo noi cercheremo di spendere, insomma, le nostre energie anche a tutela di queste imprese. Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d'Italia, per il futuro si va verso la messa all'asta delle spiagge, questa è una delle ipotesi, a voi sta bene? Buongiorno, buongiorno a lei, agli ascoltatori e alla collega Giacobbe. No, a noi non sta bene, nel senso che per l'ennesima volta abbiamo capito di essere sotto scacco da parte di un'Europa che non ci piace, nel senso che ancora una volta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea va fondamentalmente a bocciare quello che è forse una delle poche cose giuste che questo pessimo, che allora il pessimo governo, il governo Monti, fece, ovvero la proroga automatica, ricordiamolo, sino al 2020 rispetto alle concessioni di cui stiamo parlando. Quindi la proroga, voglio dire, a noi poteva stare tutto sommato bene, nel senso che con una proroga si vanno di fatto a sottolineare quelle che sono i plus, quelli che sono i virtuosismi delle aziende che hanno lavorato in questo settore, che stanno lavorando facendo congrui investimenti in questo settore rispetto ai bandi pubblici e rispetto alla gestione delle stesse. Non ci sta bene Non ci sta bene il sistema dell'asta, perché fondamentalmente si andranno a non a valorizzare le stesse aziende, ma si andrà di fatto a fare un'asta selvaggia rispetto che, alla quale possono partecipare anche dei competitor esteri. Lei prima giustamente ricordava che le nostre spiagge ad esempio possono essere anche un ghiotto bottino rispetto a competitori esteri e non più a competitori italiani, quindi non si sta bene il sistema delle aste, ci sta bene sicuramente che ci sia un congruo periodo transitorio rispetto a tutto questo, ma questo mi pareva avesse detto anche la collega Giacobbe. E poi soprattutto bisogna tenere conto di un valore commerciale delle imprese che deve essere in grado, questo valore commerciale al netto delle aste, di tutelare gli investimenti già effettuati entro questi stabilimenti. 349-238-6666 il numero per i vostri sms. Appunto, si parla di concessioni demaniali delle spiagge. Antonio Castro, capo servizio economico di Libero: sembra quasi che vogliamo regalare i nostri chilometri di spiagge bellissime italiane all'Unione Europea. Ovviamente questa è un po' la tendenza di quello che scrive il tuo giornale, ma è veramente così? Buongiorno, prima di tutto, abbiamo sicuramente un problema nel senso di adeguarci a una norma europea, e abbiamo un altro problema che ci sono 100.000 persone che direttamente o indirettamente dipendono per la loro attività dalle nostre spiagge. Abbiamo il terzo problema, che è stato quello di lasciare un po' il campo a un familiarismo di gestione delle nostre coste. Bisogna indovinare la formula magica che possa portare a una gestione oculata delle nostre coste, cosa che non sempre è stato. Ricordo il caso di Ostia, che non si riusciva per oltre un chilometro a entrare a mare, che è un diritto riconosciuto a tutti quanti, e soprattutto a valorizzare questi investimenti che sono importanti a volte. Pensiamo alla costiera romagnola, dove sono riusciti a fare degli investimenti importanti, a tirare un turismo di massa, sì, ma continuativo, o degli investimenti per valorizzare un patrimonio che soltanto noi abbiamo, con migliaia di coste, di chilometri di coste, che non sempre riusciamo a valorizzare. Perciò dobbiamo trovare una formula magica che possa mettere insieme l'interesse italiano, l'interesse dei 30.000 operatori, l'interesse dei 100.000 addetti del settore, un interesse per il nostro paese, perché il ritorno diciamo così anche dell'affitto delle nostre coste è stato sempre molto marginale per lo Stato. E allora il business va bene tutto, anche il controllo europeo di una normativa perché sia in quadro con la direttiva Bolkestein, ma soprattutto bisogna che ci sia una prospettiva di sviluppo del settore, che non sia quello improvvisato, che ognuno fa un po' come gli pare, insomma. Anna Giacobbe, c'è chi dice no, la Spagna per esempio ha detto no, giù le mani dalle nostre coste. Beh, la Spagna viene da una storia diversa per quello che riguarda la proprietà delle coste e il loro utilizzo. Noi davvero dobbiamo dire, questo credo che su questo concordiamo tutti, aste selvagge non ce ne saranno, non ce ne dovranno essere, peraltro non c'è una corsa al miglior offerente, devono essere fissati dei canoni, che li fissa lo Stato, deve fissare dei canoni equi. In questo momento ci sono canoni molto bassi in alcune situazioni e molto alti in altre, quindi questa è assolutamente, come dire, una delle strade, e dovranno essere non aste, ma appunto per chi ha già in atto la propria attività d'impresa ci deve essere un tempo, un tempo di proroga, ma soprattutto dobbiamo lavorare per valorizzare sia gli investimenti, sia la funzione che queste imprese possono avere nella tutela della costa, nella tutela dell'ambiente costiero e marino, e lavorare affinché ci siano anche esperienze di turismo sociale, insomma fare in modo che il patto fra queste imprese e lo Stato, che può essere rafforzato, abbia questi contenuti, dei contenuti di fedeltà fiscale sicuramente, di equità nel pagamento dei canoni, appunto, ripeto, o troppo alti o troppo bassi in questo momento, e noi in questo momento siamo in una fase di proroga, dobbiamo dirci questo, è stato giusto farlo senza porre un termine, sapendo che però noi dobbiamo dare certezza, quindi fare un provvedimento non vuol dire mettere in discussione la funzione e il valore di queste imprese, ma fare in modo che tutti quegli interessi che venivano citati, insomma, possano trovare spazio non in una formula magica, ma in un provvedimento di legge equilibrato e, ripeto, adeguato alle esigenze sia delle imprese sia degli utenti di quelle imprese, che sono moltissimi turisti, che sono anche tanti residenti nella mia zona, e tanto, come dire, riconoscendo la funzione che quelle imprese hanno nella nostra economia turistica, sta andando abbastanza bene questa stagione. Noi non dobbiamo, diciamo, mettere in discussione il valore di questo settore. 349-238-6666 il numero per i vostri sms, 800-24-0024 per le vostre chiamate. Walter Rizzetto, abbiamo sentito Anna Giacobbe che cerca di calmare un po' gli animi, ma è vero anche che però queste concessioni alle volte hanno favorito quella che era la malavita locale, no? C'è stato il caso di Mafia Capitale ad Ostia, come ricordava anche Antonio Castro, che nemmeno veniva lasciato il passaggio, cosa che noi sappiamo che a un certo tot metri dalla costa il passaggio è libero. Allora, cosa fare però per arginare questi pericoli? Cioè, che queste concessioni poi, che sono state date automaticamente, hanno poi favorito quello che era un familismo, ma nei peggiori casi anche quella che era la criminalità organizzata. Sì, sì, certo, ma non è perché sinceramente una cosa viene fatta male a posto, nel senso che non è perché ci sono delle aziende che si comportano male o sono colluse con la malavita che a monte serve fare un qualcosa di sbagliato, ed è altrettanto chiaro che in questo senso servono regole ferree, controlli ferri e soprattutto certezza della pena, nel senso che in Italia chi fa della malavita il suo stile in questo senso, sia in una spiaggia sia in un'azienda, deve essere messo in carcere, punto. Quindi questa è semplicemente una conseguenza. Ricordo tra l'altro che prima si parlava della famosa Bolkestein, la Bolkestein tra l'altro mi pare sia anche nella sentenza della Corte di Giustizia, quella di luglio, che riguarda questo tema, va di fatto a sottolineare il tener conto rispetto al tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni che sono attualmente in corso, e quindi serve necessariamente anche aprire sotto questo punto di vista rispetto, come prima detto, al legittimo affidamento. Il provvedimento di cui parla la collega Giacobbe, giustamente, era un emendamento tra l'altro dei colleghi Arlotti e di un altro collega, se non ricordo male, è, per quanto ci riguarda, attualmente un provvedimento tampone, ma non è una riforma strutturale che noi ci aspettiamo e che ci aspettavamo prima dell'estate, che tutto il settore di fatto richiede. Basta leggere le dichiarazioni, ripeto, di coloro che sono in questo settore e che hanno parlato negli ultimi mesi, nelle ultime settimane. Questo, il provvedimento forte, come ad esempio quello degli spagnoli, giustamente, come ricordava lei, ci avrebbe consentito di legiferare in questo senso, evitando sempre, e torno sempre al punto iniziale, evitando sempre la spada di Damocle dell'Unione Europea. Mi chiedo cosa ne sanno delle nostre spiagge, della nostra tradizione rispetto a questo settore, a queste 30.000 imprese, a queste migliaia di lavoratori, che cosa ne sanno questi giudici che stanno in Lussemburgo. Dopodiché, se vogliamo andare a fare un qualcosa di interessante, etico, virtuoso, giusto, al passo con i tempi anche rispetto a quanto stiamo vivendo, serve che in questo caso il governo ascolti, l'esecutivo ascolti sia i principali attori che lavorano in questo campo, sia ad esempio dei competitor che sono ulteriori, degli attori che sono ulteriori, che possono dire a loro. Ad esempio, io mi sono letto pochi giorni fa la proposta di Legambiente rispetto a questo tema, e Legambiente parla di spiagge, una percentuale ad esempio di spiagge libere, quasi come fossero un bene comune. Io sono assolutamente d'accordo, e anche sul premiare gli operatori che vanno a tutelare l'ambiente. È altrettanto chiaro che un operatore che in questo senso non tutela l'ambiente, ma che fa ad esempio dei versamenti di liquame in mare presso il suo stabilimento, è da punire. Un altro operatore che sicuramente va a condurre una genesi virtuosa, per così dire, anche nei confronti della tutela dell'ambiente, è da premiare, perché queste cose in Italia funzionano. Antonio Castro, capo servizio economico di Libero, qui c'è un radioascoltatore che ci scrive: salve, oltre ad Ostia anche a Termina è impossibile accedere alle spiagge se non paghi salato, i gestori non sono i padroni, e si torna al grande dilemma italiano, che è quello: serve una riforma complessiva. Quindi con la direttiva Bolkestein. Riusciremo poi a ristrutturare questo settore? E secondo te, visto che ti occupi di questa cosa, come è possibile farlo per tutelare le imprese italiane, ma anche i bagnanti, cioè chi va in stabilimento? Ma io penso che la Bolkestein sia una cornice e il quadro dobbiamo dipingerlo noi e dipingerlo pure in fretta, diciamo così, e abbiamo la responsabilità di farlo in fretta e forse abbiamo fatto un po' tardi. Penso che il diritto all'accesso al mare, visto che la costa è un bene demaniale, un bene di tutti, e perciò a volte dovremmo ricordarci anche che il bene di tutti è un bene da tutelare, non è un bene da usufruire e basta. Può essere in questo quadro si può dipingere anche il fatto di consentire un accesso al mare, come un tempo si pensava di fare per normativa. E forse il gestore deve essere l'esecutore di questa tutela del diritto dell'italiano di scendere a mare, cioè il binario per l'accesso al mare deve essere concesso a tutti quanti, perché è un bene, tu stai usufruendo di un bene di tutti in concessione, pagando un canone che può essere più o meno oneroso, più o meno importante. Io penso che la cosa importante sia fare un accordo quadro e un accordo preciso con i gestori, si mette a un tavolo e si dice: benissimo signori, questo è il bene, ve lo diamo per X anni, che non può essere una concessione di 3, 4, 5 anni. L'ANAS, mi pare di ricordare, ha dato le case cantoniere, ha messo in bando a luglio le case cantoniere per 50 anni, le ristruttura secondo un piano comune in modo che non ci siano porcherie o cose fatte lunari e te le dà in concessione per 50 anni. Si potrebbe fare la stessa cosa con gli stabilimenti balneari, con le concessioni balneari, fare un accordo, chi sgarra viene punito, viene sanzionato e si toglie il diritto a usufruire di quel bene e si passa a un altro. Perfetto. Tutto qua, secondo me deve essere chiaro questo. Linea alla pubblicità. Dalla Brexit all'immigrazione dall'Europa alla Cina, dall'Iraq a Molenbeek, tutti i temi più caldi dell'estate in un'ora di grande attualità internazionale. E poi le analisi e i racconti dei grandi eventi del nostro tempo. Risorse e materie prime, ambiente, cultura, letteratura, religione. Al di là degli stereotipi e senza censure. Voi andate pure in vacanza, il mondo ve lo raccontiamo noi. Sono Giampaolo Musumeci, anche quest'anno, zaino in spalla, ho viaggiato e indagato storie e fenomeni. Ora riaccendo il microfono per raccontarveli. Se anche voi pensate che nessun luogo è lontano, vi aspetto tutti i giorni alle 16, qui su Radio 24. Ma cos'è quest'estate? E noi torniamo a parlare della direttiva Bolkestein, parliamo quindi di spiagge, di concessioni. Buongiorno, è assurdo e ridicolo, non si dovrebbe neanche pensare di vendere le spiagge italiane, dice un nostro radioascoltatore. Quando sapremo mai dire no? Scrive Lucia. Cristiano Tomei, responsabile nazionale della CNA Balneatori, buongiorno. Questa buongiorno. Direttiva vi danneggia, questo è chiaro, ma è anche lo spunto per riformare finalmente il settore? È sicuramente uno spunto per riformare il settore, buongiorno a tutti innanzitutto, ed è uno spunto per riformare il settore e la direttiva Bolkestein dal lato ci danneggia, ma soprattutto perché al momento in cui questa direttiva è stata approvata, credo, anzi sono convinto, che da parte dell'Italia non siano state valutate le ricadute negative. Questa stessa sentenza riconosce un fatto importantissimo che era stato citato anche prima in un intervento che ho sentito, ossia il legittimo affidamento. Come può oggi un'impresa che confidava per tanti decenni su questo legittimo affidamento e ha fatto degli investimenti, pensare che il suo orizzonte di attività sia finito, che abbia ancora pochi mesi per svolgere il proprio lavoro e quindi essere liquidata? Questo è un discorso che vale 30.000 imprese italiane. Come si può pensare di continuare a lavorare senza sapere qual è il proprio tempo a disposizione? Se un'impresa non fallisce, non commette nessun tipo di abuso, è legittimamente operativa, quindi non ci sono fatti illegittimi, perché deve concludere la propria attività? In base a che cosa? Anna Giacobbe, perché deve concludere l'impresa la propria attività? Anna Giacobbe. Investimenti che fa bene il proprio lavoro, lo fa correttamente, non deve interrompere la propria attività. abbiamo detto, insomma, per le imprese che sono oggi in attività ci deve essere una proroga significativa. Io non so dire di quanto è appunto questo oggetto di trattativa. Noi non possiamo legiferare contro l'Unione Europea, ma noi possiamo davvero utilizzare tutti gli spazi che ci sono e farlo bene. Forse è tardi, come è stato detto, un po' tardi, avremmo dovuto farlo prima, c'erano difficoltà significative. Io credo che noi possiamo davvero mettere in condizione le imprese che si comportano bene, che rispettano diciamo le regole e soprattutto che sanno fare, perché c'è anche questo elemento, no, di capacità. Si è parlato prima di familismo, è vero, è riduttivo, ma l'impresa familiare spesso riesce a dare nell'accoglienza molto, e quindi anche questo è un elemento che va, come dire, non demonizzato, ma assolutamente quando è giusto diciamo valorizzato. Ci sono interessi diversi da comporre, compreso quello delle imprese. Io credo che questa cosa la sapremo fare. Oggi è vero che il provvedimento che abbiamo già votato è un provvedimento ponte, ci aspetta in questo autunno un lavoro nel quale è stato ricordato, io lo sottolineo anche, bisogna che ci sia con le imprese, con le associazioni delle imprese, un lavoro comune in modo che possa essere davvero trovata la soluzione adeguata. Di aste non si tratterà, ripeto, non ci sarà un'offerta al miglior offerente, non può essere così, bisogna che lo Stato svolga la propria funzione, determini dei canoni giusti, perché ripeto, quello è un bene pubblico, ma anch'io ritengo che non sia soltanto un bene pubblico da lasciare lì, che sia un bene pubblico che può essere valorizzato, e le imprese che ci lavorano sopra possono avere, e spesso lo fanno, molto spesso lo fanno già. Non è che finirà che vendiamo le nostre spiagge ai cinesi, visto che sono... No, ma allora, intanto le spiagge non le vende nessuno, infatti, questa è una delle cose che, come dire, avevano allarmato da diversi punti di vista. Le spiagge rimangono pubbliche assolutamente, siccome sono pubbliche devono essere affidate a qualcuno perché possa, come dire, utilizzarle, valorizzarle, trarre anche un profitto da quella attività, ma nessuno venderà le spiagge, e la possibilità che entrino competitori stranieri, noi non possiamo in assoluto questa cosa, noi possiamo però, e ci sono ancora diciamo tratti di spiaggia che non sono stati affidati, dobbiamo conservare la possibilità di avere una quota di spiaggia libera, ma di spiaggia libera diciamo attrezzata e curata. Ci sono appunto, veniva detto prima, diversi elementi, tutti questi devono far parte di una nuova normativa che è quella appunto che ci apprestiamo a discutere e che davvero insomma non ci presenta una prospettiva tragica. Io credo che ci sarà molto da lavorare, che ci sarà davvero da fare un confronto serrato con chi rappresenta quelle imprese, così come sono state citate anche queste, le imprese, le associazioni, scusate, che hanno a cuore non solo l'ambiente, un altro aspetto, un altro degli interessi da tutelare, devono poter dire la propria per comporre un quadro equilibrato. Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d'Italia, a lei chiedo delle provocazioni dei nostri radioascoltatori. La concorrenza a noi italiani non piace, scrive Anna. E poi Andrea dice: in Italia si dice no a tutte le innovazioni, c'è un protezionismo da paese totalitario, è così? No, non è così, nel senso che la concorrenza in Italia ci piace, tant'è vero che stiamo svendendo tutte le nostre principali aziende a dei competitor esteri, quindi la concorrenza è una cosa che ci piace molto in questo sistema globale. E di seconda battuta io mi posso soltanto permettere di dire che per quanto riguarda questo settore, è un settore che deve restare presso le aziende italiane, nel senso che la direttiva Bolkestein dà la possibilità, in un regime, voglio dire, nel rispetto della libera concorrenza, dà la possibilità anche ad imprenditori di altri paesi membri dell'Unione Europea di partecipare ai bandi pubblici. Questa è una cosa che a me, se posso, non piace, nel senso che non mi piace questa Europa. D'altra parte, vedete, e questo, l'Italia è un paese strano, nel senso che, voglio dire, inserito in un contesto dell'Unione Europea, e dobbiamo mandare sub iudice in Europa tutto quello che passa in Parlamento. Dovremmo mandare la prossima legge di stabilità, quella che una volta era la finanziaria, dobbiamo mandare ad esempio le norme in materia di lavoro, e dobbiamo anche essere, ritorno all'incipit iniziale, dobbiamo anche essere sub iudice da Lussemburgo rispetto alle spiagge italiane. Tra l'altro ci sono dei motivi per cui io voglio dire sottolineo con forza questo tipo di passaggio, che possono essere sicuramente, come ricordava, come si ricordava prima, il rispetto del legittimo affidamento già normato nella direttiva Bolkestein, ma ci sono altri articoli, ad esempio se l'articolo 17 della Carta di Nizza, ad esempio, dice che va a sottolineare come ogni individuo ha diritto di godere delle proprietà dei beni che ha acquisito legalmente e nessuno può esserne privato, e questo non riguarda soltanto i diritti reali, ma anche voglio dire quelle che sono, e la Carta di Nizza lo va a sottolineare, le utilità che vanno a scaturire da un rapporto in termini di concessione. C'è, senza entrare troppo nel tecnico, l'articolo, chiudo con le citazioni, l'articolo 37 del codice della navigazione, che voglio dire va a sottolineare come un rilascio di una concessione demaniale marittima, a questo rilascio venga riconosciuta una preferenza in termini di soggetto già titolare, dice l'articolo 37. Quindi qui non si parla di una ricusazione nei confronti di una concorrenza. La concorrenza è un qualcosa di giusto, è un qualcosa che va assolutamente bene quando è fatta bene. Altra cosa è dire, e chiudo, altra cosa è dire il 14 luglio, anzi qualche mese fa, un mese fa circa, la sentenza della Corte di Giustizia, il 14 luglio di quest'anno le 30.000 imprese rispetto a questo settore sono fuori legge, nel senso che non vanno più ad andare in quel solco scavato dal governo Monti rispetto alla proroga automatica, ma sono fuori legge, e allora il governo italiano deve intervenire d'urgenza. Ecco, io in Italia vorrei intervenire un po' meno di urgenza e programmare un po' di più, perché qui si parla di posti di lavoro e si parla anche di investimenti molto importanti, quindi premiamo coloro che fanno degli investimenti giusti, etici, virtuosi, andiamo a punire ad esempio coloro che non ne fanno o che fondamentalmente non vanno a seguire le regole e le leggi. Chiaro, Cristiano Tomei, molti radioascoltatori ci dicono le spiagge vengono subaffittate a caro prezzo e ci chiedono libera concorrenza, sembrano dei mandarini cinesi, altro che 50 anni di concessione. Insomma, c'è una parte del paese che invece vede questa direttiva Bolkestein come innovativa. Che cosa risponde a questi radioascoltatori? Questo è un falso problema, perché la direttiva pensata così, che si pensi possa andare verso la collettività, di fatto senza delle regole precise e delle scelte politiche di indirizzo ben preciso, vanno solo a vantaggiare le multinazionali. Le regole sulle spiagge ci sono, perché ci sono ordinanze balneari regionali e della Capitaneria di Porto, ci sono leggi che vanno a disciplinare a livello regionale e comunale l'indirizzo e la programmazione che deve essere effettuata sulle spiagge, e ci sono delle regole che devono rispettare tutti, a partire dai gestori degli stabilimenti balneari. Chi non rispetta naturalmente paga, ma questo sistema di regole già esiste da decenni. Noi chiediamo al governo e al Parlamento di fare una cosa semplice: rispettare la sentenza. La sentenza ha detto un fatto importante: gli stabilimenti balneari hanno diritto al legittimo affidamento, hanno fatto degli investimenti, devono continuare a vivere, esistere lì dove sono nati e si sono realizzate queste fantastiche imprese che ci invidiano in tutto il mondo, e che un sistema così non si riscontra in nessun altro paese del nostro continente europeo. Non riusciamo a capire perché la politica voglia sempre girare intorno quando debba affrontare direttamente il problema. Beda Romano, un attimo, la interrompo. Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles, buongiorno. Beda, insomma, le spiagge italiane si stanno ribellando, le spiagge ovviamente, gli operatori, i concessionari delle licenze per le spiagge si stanno ribellando a questa direttiva Bolkestein. A tuo parere ci sono spazi di manovra per tutelare i nostri imprenditori, ma anche per far rispettare la direttiva e non incorrere in sanzioni? Ma l'obiettivo della direttiva è quello di garantire il libero accesso al mercato e giusti prezzi. E la Corte di Giustizia ha fatto notare che dal suo punto di vista la direttiva non viene applicata pienamente dallo Stato italiano, perché rinnova in automatico le concessioni delle società che gestiscono le spiagge demaniali. Quindi la direttiva chiede fondamentalmente maggiore concorrenza nel settore, pur rendendosi conto evidentemente che molte di queste società hanno fatto investimenti e devono poter contare su un periodo lungo di utilizzo della concessione. Quindi l'impressione che io ho da Bruxelles è che la direttiva permetta di trovare un compromesso tra le esigenze delle società che hanno la concessione e le esigenze dei consumatori che vogliono dei prezzi bassi e una libera concorrenza nel settore. Bisogna però lavorare sui termini pratici. La Corte di Giustizia ha preso posizione contro il rinnovo automatico della concessione, ma non contro la possibilità che le società balneari possono godere della concessione per periodi relativamente lunghi. Cioè, il discorso è: si può poi, finito questo periodo, rifare domanda, non c'è questa proroga a vita, è questo che l'Unione Europea ci contesta. È l'automatismo che contesta, ed è un automatismo che secondo le autorità europee è penalizzante per i consumatori, perché inevitabilmente limita la libera concorrenza nel settore e comporta prezzi elevati a fronte anche di investimenti importanti, ma sono i prezzi elevati e la conseguenza probabilmente inevitabile dell'automatismo nel rinnovo della concessione. Serena Carpentieri, responsabile della campagna di Legambiente Goletta Verde, ovviamente va in tutte le spiagge. Che opinione si è fatta sulla direttiva Bolkestein, sul fatto che appunto queste concessioni non siano rinnovate automaticamente? Sì, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto la proroga automatica, diciamo, delle concessioni demaniali è sicuramente un'anomalia tutta italiana, cioè questo non avviene nel resto d'Europa. Sicuramente si deve lavorare su una legge che intanto si basi per premiare la qualità della gestione, cioè per noi quello deve essere il criterio per l'aggiudicazione di una gara, a prescindere, ma anche dei canoni adeguati. Oggi in Italia, diciamo, i canoni per la concessione demaniale sono quasi più bassi di tutta Europa. Noi vorremmo che quei canoni siano adeguati alla qualità del servizio e che poi vengano soprattutto utilizzati per la riqualificazione ambientale. E poi c'è un altro tema, che è quello delle spiagge libere. Fino adesso non ci sono dei range entro cui le regioni devono stabilire una quota in percentuale di spiaggia libera, se non in Puglia, e noi vorremmo che le spiagge libere siano almeno al 60% rispetto alla quota della costa per ogni regione. Quindi che la sentenza della Corte di Giustizia europea ci deve far riflettere su quale sviluppo vogliamo avere per la nostra costa, a partire da alcuni paletti che secondo noi sono appunto indispensabili per definire nuovi criteri che puntino alla qualità del turismo, ma anche alla sostenibilità economica e alla trasparenza. Cristiano Tomei, abbiamo sentito anche il problema delle spiagge libere, perché gli italiani hanno la sensazione che poi i concessionari di spiagge occupino tutti gli spazi e non si lascia a nessuno nemmeno un pezzettino per le spiagge libere. È così? Ma no, non è così, perché i piani demaniali marittimi regionali, i piani spiaggia comunali lasciano una percentuale importante, ma poi su quelle spiagge libere il servizio di pulizia e soprattutto quello di salvamento viene svolto dagli stabilimenti balneari contigui, che si sostituiscono a una funzione pubblica. È un sistema questo che opera da sempre su spiagge pubbliche. Le spiagge pubbliche sono anche quelle dove esistono gli stabilimenti balneari. E questo equilibrio con delle regole da decenni esiste, e su questo equilibrio e su queste regole si è creato ciò che vediamo oggi. È qualcosa che funziona, di cui oggi la politica si sta accorgendo, perché fino a poco tempo fa è stato un sistema con delle regole gestito dalla Guardia Costiera e ha funzionato. Oggi ci stiamo occupando di qualcosa che esiste da almeno 30-40 anni, ci stiamo accorgendo di qualcosa che, oddio, invece funziona. Bisogna solamente in questo momento capire come aderire ai principi europei, ma non solamente quelli che vengono imposti dall'alto, ma come interpretare in Italia questi principi, perché noi vogliamo stare in Europa, però vogliamo stare in Europa in un modo autorevole, in un modo in cui si rappresenta ciò che è l'impresa italiana in Europa e non che debbano essere delle sentenze che ci debbano dire cosa dobbiamo fare. Quando interviene una sentenza vuol dire che la politica non ha fatto bene il suo dovere, manca, c'è un vuoto. Noi oggi comunque chiediamo alla politica di rispettare il legittimo affidamento che è stato sancito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea. Chiaro. Ossia il diritto di esistere di 30.000 imprese italiane. Chiaro, chiaro. Serena Carpentieri, responsabile anche della campagna di Lega Ambiente Goletta Verde, parliamo dell'inquinamento dei mari. Quali sono le spiagge più belle e quali sono quelle più brutte in Italia? Sì, allora noi abbiamo da pochissimo chiuso il nostro viaggio annuale con Goletta Verde, abbiamo prelevato e analizzato 265 campioni di acqua lungo tutte le coste italiane. Diciamo che la metà di questi, il 52%, sono risultati con cariche batteriche decisamente elevate, quindi fuori dai termini che prescrive la legge. Diciamo che tutto questo inquinamento arriva principalmente dalle foci dei fiumi, dei canali, degli scarichi, perché ancora una volta denunciamo l'arretratezza del nostro paese sul tema dell'efficientamento della depurazione, ma anche sul controllo degli scarichi illegali. Quindi da questo tipo di inquinamento purtroppo nessuna regione italiana è esclusa. Quello che possiamo dire è che la migliore performance, insomma, va anche quest'anno alla Sardegna e alla Puglia, mentre abbiamo trovato situazioni molto più critiche nelle Marche e in Abruzzo, perché appunto la costa di queste due regioni morfologicamente ospita più corsi d'acqua e di conseguenza ci sono più veicoli di un potenziale inquinamento che arriva in mare, quindi c'è una situazione più vulnerabile che sicuramente merita più attenzione. Le località dove è più bello fare il bagno, qualche nome? Insomma, allora, ci faccia sognare. Allora, noi alla vigilia dell'estate presentiamo una guida turistica che si chiama Guida Blu, che prende in considerazione una serie di parametri, quindi non solo la qualità delle acque, ma proprio il turismo di qualità a 360 gradi. In questa classifica entrano 19 località che vengono premiate con le 5 vele, tra cui possiamo annoverare Domus de Maria in Sardegna, Pollica in Cilento, Castiglion della Pescaia in Toscana, ma ci sono anche le siciliane Santa Marina Salina alle Eolie, San Vito Lo Capo, ci sono le Cinque Terre con Vernazza, c'è cioè Maratea nella Basilicata Tirrenica, ci sono diverse località premiate anche in Puglia con Otranto e Polignano a Mare e Melendugno, ancora una Salernitana a Camerota. Insomma, sono tantissime le località dove è possibile non solo fare bagni in acque limpide, ma anche godersi un tipo di turismo che mira alla qualità, dove ci sono una serie di attenzioni anche sul fronte della gestione della raccolta differenziata piuttosto che dell'energia e della godibilità proprio del territorio dal punto di vista storico ed enogastronomico. Quindi per noi, insomma, questo rientra in un tipo di sviluppo che ci auguriamo il nostro paese possa proseguire. Grazie. Giada Cantamessa invece è referente per il progetto Forte dei Marmi, Arte per la Vita. È un progetto di beneficenza, giusto? Sì, esatto. Buongiorno a tutti. È un progetto che vede la Croce Verde di Forte dei Marmi unita agli artisti del territorio proprio per poter avere la possibilità di raccogliere dei fondi per poter dotare le ambulanze della Croce Verde di apparecchiature elettromedicali di primo soccorso. E quindi è un'iniziativa questa importante in cui sia gli artisti del territorio che noi volontari soccorritori abbiamo voluto creare proprio per sensibilizzare anche i cittadini di Forte dei Marmi e soprattutto anche i villeggianti, proprio perché, come è stato detto fino adesso, avete fatto una sorta di analisi, insomma, di tutti i territori e di tutte le bellezze che ci sono in Italia, per raccogliere appunto le persone durante l'estate, per i villeggianti, per il turismo, e quindi per noi è una cosa, è una realtà questa importantissima, proprio per sensibilizzare la gente e poterci aiutare a raccogliere fondi. Questo avviene attraverso l'analisi di alcune opere e la visione di alcune opere sul sito della Croce Verde. Perfetto, quindi www.crocevervediforte.it/arte per la vita. Quindi, insomma, arte e Croce Verde. E noi lasciamo però Forte dei Marmi, quindi lasciamo la costa toscana per inoltrarci invece sulle colline e per arrivare a Siena, dove oggi si svolge il Palio. Buongiorno Carlo Marroni, editorialista e vaticanista del Sole 24 Ore, senese di nascita, e tu stai proprio lì, sei proprio a Siena in attesa del Palio, giusto? Sì, ciao, buongiorno a tutti. Ciao Elisabetta. Sì, siamo qui in attesa del Palio. Questa sera alle 7, la corsa, 10 contrade scendono sulla pista. Per i tuoi ascoltatori, le contrade, ricordo, sono 17 a Siena, ma corrono 10 per volta con un meccanismo, diciamo, di alternanza l'una con l'altra. E questo è, diciamo, il Palio di agosto, il Palio dell'Assunta, quello che generalmente è quello più vissuto. I pali sono identici, però quello dell'Assunta è quello dove ci sono maggior numero di persone, anche perché c'è tutto un flusso di turismo, diciamo, e poi c'è più attenzione visto che l'Italia in quel momento è in vacanza. Però i pali sono due all'anno, 2 luglio e 16 agosto, e sono perfettamente identici. Quali sono le contrade favorite? Allora, le contrade favorite generalmente si misurano con i cavalli, che sono, se sono più o meno forti, perché poi i senesi conoscono bene tutti i cavalli che vengono. Sono l'Aquila, con un cavallo bianco molto, molto forte, Oppio si chiama, e il Drago, cavallo che si chiama Morosita. Queste sono le due contrade, e poi che hanno il cavallo migliore, e poi la Lupa, che ha vinto anche a luglio, che pure ha lo stesso cavallo con cui ha vinto a luglio, e quindi è considerata anche lei abbastanza favorita. Però vorrei ricordare che il Palio, si dice sono 10 le contrade che si presentano, poi alla fine partono in 11, perché l'undicesimo è la sorte, cioè alla fine poi il Palio sono 3 giri, tutto si consuma in un minuto più o meno, e in quel minuto tutto può accadere, quindi diciamo il più forte, quello che si vede alle Olimpiadi, non è detto che poi vinca, ecco. Anche perché la sorte avvantaggia il cavallo, deve arrivare il cavallo, se il fantino viene scalcionato, il cavallo vince, giusto? Esatto, la regola storica del Palio è questa: il cavallo scosso, che si chiama così nel gergo, il cavallo che vince da solo, ed è accaduto molte volte negli ultimi anni, poco per la verità, ma non perché ci siano dei motivi specifici. La Lupa, che ha vinto dopo 27 anni a luglio, la volta precedente nell'89 aveva vinto con cavallo scosso, per esempio, e questo è tipico del Palio. Tutto questo naturalmente avviene in un contesto dove, ecco, da una infatti parte c'è una sicurezza fortissima per i cavalli. Io da senese lo dico, ma lo dico anche da giornalista. No, perché ci sono sempre delle polemiche sul, ecco, fatto che i cavalli vengano sfruttati e che sono schiavi di questi fantini terribili, che cavalcati a pelo, senza sella, insomma. Ci sono un allora, po' questa, sempre di questa, polemiche, sì, animaliste. Cavalcare a pelo per certi versi per cavallo è meglio, perché almeno non ha la sella. Premesso questo, perché i cavalli nascono per stare a pelo. Ma comunque sia, questa, ora non lo dico da sinistra, ma ripeto, ma da giornalista che cerca di essere un pochino, come dire, obiettivo, i cavalli a Siena sono trattati benissimo. Naturalmente vengono, corrono con delle persone sopra, però anzitutto è tantissimo che non accade nulla. I cavalli quasi mai si fanno male, ormai da anni, perché ci sono estreme misure di sicurezza. I cavalli sono forti, non sono più cavalli che si fanno male facilmente, quindi diciamo le polemiche, è ovvio che qualche associazione che cerca un minimo di visibilità col Palio ce l'ha, non è che può cercare visibilità su altre sagrette di cui l'Italia è piena, è ovvio che il Palio, che è la cosa, il palio. Quindi questo è, e poi c'è l'altro, quindi il tema della sicurezza, direi che questo dei cavalli è abbastanza assodato. L'altra questione è la sicurezza delle persone, visto il clima in cui stiamo vivendo, c'è una incremento delle misure di sicurezza ma estremamente discrete, cioè di fatto non ci si accorge che probabilmente polizia, carabinieri eccetera, perché in piazza del campo c'entrano quasi 50.000 persone ma sono senza controlli, cioè un fatto credo unico al mondo di concentrazione di persone ma tutte con una libertà molto alta, però questo avviene anche sotto l'occhio probabilmente discreto delle forze dell'ordine. Visto l'allarme terrorismo, 30 secondi per dirmi, ma c'è un pochino di debacle per la storia del Monte dei Paschi oppure l'atmosfera è sempre vivace? L'atmosfera è estremamente vivace, cioè il Palio vive dal 1300 con varie forme e dal 750 con questa forma qua e quindi ha superato qualsiasi crisi. Il palio vive. Naturalmente il Monte dei Paschi era una fonte importante per la comunità, ma purtroppo è stato deciso da vecchie gestioni, lo hanno massacrato, speriamo che da questa situazione attuale si risollevi. Linea al giornale radio. Noi di Radio 24 per le Olimpiadi ci facciamo in due. Doppio appuntamento infatti in diretta con me, Carlo Genta, ogni giorno da lunedì a venerdì, tutti convocati dalle 14 alle 15 per tutti i temi sportivi. E raddoppio con tutti convocati alle Olimpiadi, sempre da lunedì a venerdì, dalle 18 alle 20. Con me e con Giovanni Capuano e tutti i nostri ospiti e inviati per non perdere proprio nulla di questa incredibile estate di sport. Ma cos'è quest'estate? E in questa seconda parte, questa mattina, noi ci vogliamo interessare a quello che sta succedendo nel mondo editoriale, cioè leggere in Italia, perché sembra un agosto insomma farcito di polemiche di salotto, di salotti tra Milano e Torino, ma anche di tante passioni. Abbiamo con noi Salvatore Carruba, giornalista, scrittore, vicepresidente della Fondazione Wilm, presidente del Piccolo Teatro di Milano, presidente della Fondazione Collegio dell'Università Milanesi, direttore del Sole 24 Ore dal 93 al 96 e poi soprattutto editorialista del Sole, ma conduttore su Radio 24 di Un Libro Tira l'Altro. Buongiorno Salvatore. Buongiorno a tutti. Insomma, che sta succedendo? C'è una spaccatura tra i grandi editori che vogliono lasciare Torino e andare a Milano e i piccoli editori che puntano i piedi e dicono no, e anche gli scrittori, no, vogliamo restare a Torino, è così? Sì, è così. Credo che ci sia anche una questione interna alla categoria degli editori, nel senso che mi sembra ci sia stata un nuovo corso dell'associazione degli editori che li riunisce e che si è subito dichiarata favorevole a uno spostamento del Salone da Torino a Milano. Sinceramente le ragioni di questo spostamento non tutti l'hanno capita bene. Credo che al di là delle polemiche fra i salotti alle quali accennavi tu, ci siano anche polemiche o interessi di grandi centri organizzativi, per esempio alla Fiera di Milano, che naturalmente ha sperato e ha fatto di tutto per poter portare il Salone del Libro a Milano e quindi di acquistare un maggior peso come fiera nella città lombarda. Sì, quindi ma credo che ci siano gli interessi degli editori, ma anche altri interessi legittimi, ovviamente. Tu dici spostare il Salone a Milano favorirebbe gli editori, perché comunque la gente è più facilitata ad arrivare a Milano piuttosto che a Torino? No, non credo che sia questa la questione. Il problema che ci si dovrebbe porre tutti, e l'ho fatto anche rispondendo a una lettera proprio sulla rubrica del Sole 24 Ore, è quale possa essere l'interesse per il lettore, che purtroppo è una categoria rara in Italia. Credo che questa dovrebbe essere la priorità per gli editori e per tutti che vogliono effettivamente preoccuparsi sulla situazione della lettura del nostro paese. Io non credo che gli editori conti in particolare spostarsi da Torino a Milano. È vero che la maggior parte degli editori sono a Milano, ma non tutti sono a Milano. È anche vero che la formula di Torino era una formula consolidata ma che dava segni di crisi, non tutti erano soddisfatti, si lamentavano dei costi, si lamentavano del fatto che i ricavi fossero abbastanza relativi, quindi credo che ci siano robuste ragioni commerciali alle spalle di questa scelta di spostare il Salone a Milano, che probabilmente offre soluzioni logistiche più efficaci. Però ripeto, no, questo non toglie nulla al problema vero di fondo che dovrebbe interessare tutti, non solo gli editori, che è quello di far leggere di più in Italia. Sì, è sembrato un po' come queste le grandi major, no? Se dovessimo paragonare l'editoria al cinema, le grandi major vogliono convincere i produttori indipendenti, quelli degli indie movie, a spostare magari il Sundance Festival, un po' così? Sì, credo che ci sia anche questa ragione, e certamente bisogna tenere conto del fatto che la produzione indipendente, soprattutto nel campo della cultura, il cinema, i libri, è una risorsa fondamentale, perché i grandi editori che fanno benissimo il loro mestiere, e ce ne fossero di tanti maggiori editori, ovviamente sono portati a puntare sulle produzioni di massa, sui libri che possono avere un grande successo. I produttori indipendenti, i piccoli editori, sono quelli che mantengono un'area di libertà, di criticità, di pensiero anche meno conformista, e quindi svolgono una funzione essenziale dal punto di vista culturale. Isabella Ferretti, editrice di 66th and Second, è una di quei piccoli editori indipendenti che ha addirittura lasciato l'AIE, cioè l'Associazione Italiana Editori, proprio per contestare sul fatto che il Salone del Libro possa essere trasferito da Torino a Milano. Perché? Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per aver pensato a me in questa occasione, ma io voglio fare una precisazione: l'uscita dall'AIA non è motivata da una contestazione fine a se stessa tra Milano e Torino, anzi nella lettera di uscita di questo manipolo, chiamiamolo così, insomma, di dissidenti, come ormai le persone sembrano definirci, insomma, si diceva proprio che quello che noi vorremmo evitare è una frammentazione piuttosto che una moltiplicazione delle occasioni di promozione della lettura. Il Salone di Torino, con tutte le difficoltà legate a un evento di questo tipo, che sarebbero, immaginiamo, no? Anche delle difficoltà che possono riprodursi in occasione di una nuova fiera a Milano, però ha 30 anni di esperienza. In questi 30 anni di esperienza il Salone si è accreditato come probabilmente la terza manifestazione in Europa di stampo fieristico e di stampo festivaliero, perché ecco, ricordiamo che il Salone di Torino riesce ad unire questi due aspetti, cioè quello di offrire al pubblico un range molto ampio di autori presenti che rappresentano un comparto vasto della categoria editoriale italiana, quindi ci sono autori italiani e stranieri pubblicati da grandi editori, ma ci sono anche tanti autori che appartengono all'editoria indipendente. Allo stesso tempo però il Salone di Torino è un'occasione per molti editori di trattare diritti, soprattutto di trattare la vendita dei propri diritti, quindi è anche un modo per valorizzare un'eccellenza italiana che è quella appunto dell'editoria, che è una tra tante eccellenze della cultura indipendente. Isabella Ferretti, voi quanti siete, quanti editori hanno firmato questa lettera? La lettera è stata firmata da 12 editori, io adesso non magari non li ricordo tutti a memoria, però cito ADD, Sur, Minimum Fax, EO, che si è unita alla lettera pur avendo annunciato subito l'uscita dall'AIA non appena è stata presa la decisione relativa alla fiera, Lindau, Nutrimenti, successivamente si sono aggiunti La Nuova Frontiera, O/O, Iperborea, ecco, anche è un gruppo, Nottetempo, scusate, più mi vengono in mente, è un gruppo di editori che in realtà è all'oscuro del progetto milanese, cioè noi siamo soltanto al corrente della volontà di realizzare una fiera a Milano, e come diceva Salvatore Carruba, questo sarebbe uno scopo legittimo, tra l'altro anche auspicabile, in più una fiera che dovrebbe avere una modalità di gestione da parte degli editori in prima persona, no? Che quindi non poteva che essere benvenuta da parte di tutti, editori grandi e piccoli. Purtroppo però non conosciamo il progetto nei suoi particolari, ma l'unica cosa che sappiamo è che è stato posto come un salone alternativo a Torino. Ecco, è questa alternatività non chiarita, ecco, non motivata, che ci ha spinto a concretizzare un gesto di solidarietà nei confronti di Torino, perché quell'esperienza trentennale non debba cadere nel nulla, e l'unico modo che avevamo, speriamo, ecco, per farci sentire, era uscire, non c'era altro modo. Salvatore Carruba, sembra un po' Davide contro Golia, no? Questi piccoli editori che però sono quelli poi che pubblicano anche seguendo delle logiche che non sono quelle strettamente di mercato e magari poi scoprono anche degli autori emergenti. Certo. Si sono ribellati, hanno detto no, all'AIE che dobbiamo dire per onore della cronaca abbiamo cercato anche ovviamente la parte opposta, ma essendo agosto sono un po' tutti in vacanza. Ecco, quindi Salvatore, questo gesto di Davide contro Golia però poi è piaciuto anche agli scrittori, perché questa polemica sta continuando sui giornali, no? E adesso c'è stato addirittura Baricco e dice io voglio restare a Torino. Insomma, gli scrittori sono un po' spaccati in due tra il grosso editore e il piccolo editore. Beh sì, gli scrittori sono, mi pare, tendenzialmente affezionati a Torino. Come diceva poco fa Isabella Ferretti, Torino aveva questa caratteristica che consentiva molti incontri, consentiva una spettacolarizzazione della lettura che si sperava potesse portare a un aumento dei lettori. Anch'io ho partecipato a diversi incontri negli anni anche per presentare dei miei libri, da ultimo un paio d'anni fa, un grande successo, la sala era piena, purtroppo i libri venduti sono stati pochissimi. Quello che si lamenta in questo tipo di manifestazioni è proprio questo fatto, che c'è una rincorsa a incontrare il personaggio, che in quel caso probabilmente non ero neanche io, ma era il mio partner, e senza che questo si accompagni con un investimento sui libri. Questo ovviamente adesso hai stuzzicato la nostra curiosità, quindi ci devi ricordare il titolo del libro e anche il tuo partner. Dunque, guarda, il titolo del libro era Il museo spiegato ai ragazzi ed è pubblicato da un piccolo editore, Francesco Brioschi. Il mio partner era Filippo D'Averio, che ha contribuito, diciamolo così, come modestamente, a riempire la sala. Però i libri venduti poi alla fine sono stati pochi, anche se tutti erano contenti dell'incontro. E questo è un po' quello che si lamentava a Torino da parte degli editori, del fatto che si dovessero organizzare in continuazione questo tipo di spettacoli, di eventi, di appuntamenti che eccitavano il pubblico, riportavano le masse, le famiglie, le scuole, eccetera, eccetera, però poi alla fine i libri se ne vendevano pochi. Ripeto, il punto vero è questo qui. Dobbiamo inventare una formula a Torino, o Milano, Roma, Bologna, in cui la gente sia invogliata a leggere di più, perché questo è il problema della cultura italiana. Questo sì è un problema annoso. Allora, Antonio Troiano, responsabile redazione della lettura del Corriere della Sera. Buongiorno Antonio, intanto complimenti, perché voi avete deciso un anno fa circa di lanciare questo inserto esterno al Corriere, costa 50 centesimi e ha avuto un grossissimo successo, quindi avete scommesso sulla lettura. Sì, è stata una sfida fatta con grandi paure, grandissime paure. La stima di vendita quando abbiamo lanciato il supplemento a pagamento era di circa 20.000 copie e dalla prima domenica in edicola sono quasi 100.000 copie a settimana, con grande sorpresa anche nostra. Quindi è stato un successo editoriale in un momento in cui l'editoria, anche i giornali sono molto in crisi, inaspettato. Quindi non è vero che in Italia non si legge oppure non c'è un interesse rispetto alla lettura. Poi voi avete ampliato un pochino, perché fate una prima parte, il dibattito delle idee, insomma è molto gradevole. È quello che succede un po' nei paesi anglosassoni, Isabella Ferretti poi me lo potrà confermare, quando c'è l'inserto della domenica, no? Questo era il vostro concetto. Noi abbiamo cercato e cerchiamo di fare tutte le settimane un supplemento culturale che non sia presuntuoso e non sia selettivo, cioè un supplemento che accolga quelle che sono le tendenze, le segnalazioni che cogliamo in quello che è il mondo culturale, per cui si va dagli articoli di Alessandro Piperno, molto raffinati, alle graphic novel, alle visualizzazioni dati, ai fumetti, alla letteratura, al teatro, al cinema, cioè in una maniera molto aperta, cercando e sperando di offrire un prodotto che i lettori apprezzino. Salvatore Carruba, noi per par condicio dobbiamo dire che poi c'è il bellissimo inserto La domenica del Sole 24 ore. Spero di aver diretto anch'io. Cioè. Però la novità della lettura è stato il fatto di avere fatto un inserto a pagamento su questo tema. Come se ne esce? Perché gli italiani leggono poco? Perché questa è una cosa, un refrain che torna. C'è poco tempo, si sta troppo su Facebook, c'è c'è bel tempo e quindi si va in piazza con gli amici a bere una birra. Insomma, banalità a parte, come si può incentivare la lettura? Ma le banalità valgono in tutti i paesi del mondo, che anche essi godono di internet, sorseggiano birra e hanno bellissime spiagge, però leggono più di noi molto spesso, anzi quasi sempre. Quindi c'è un fatto italiano, c'è una atavica tradizione italiana che però ha una caratteristica che spiega la ragione del successo sia della lettura sia dell'inserto della Domenica del Sole 24 Ore, cioè che in Italia ci sono pochi lettori ma ci sono molti lettori forti, cioè molti lettori che leggono tanti libri, in questo senso più che in altri paesi. Ed è questo settore, questo segmento che salva in qualche misura l'editoria italiana. Per il resto dei lettori, quelli che non leggono mai, perché non leggono? Beh, probabilmente perché c'è una non siamo abituati alla lettura fin da piccoli, ancorché i libri che si vendono di più siano i libri per ragazzi, anche se adesso qualche segno di crisi comincia a manifestarsi anche in quel settore. Però a un certo punto i ragazzi smettono di leggere e probabilmente nella maggior parte non riprendono più. Allora bisogna operare in quella fascia di età verso i 12, 13, 14 anni, che è la fascia critica nella quale probabilmente un maschio soprattutto abbandona i libri e non lo riprende più in mano per tutta la vita. Credo che le scuole, le biblioteche, le istituzioni culturali dovrebbero fare meglio e di più, come si fa del resto in altri paesi. Pensiamo per esempio al fatto che anche nella comunicazione ci sono sulle televisioni delle trasmissioni di libri che hanno grande successo in molti altri paesi. E da noi se parli a un produttore televisivo di libri si mette a ridere, scappa via inorridito perché non vede l'audience per quel tipo di trasmissione e così via. Quindi insomma credo che bisogna seminare partendo appunto da quell'età, che è l'età critica nella quale si forma la disaffezione totale e temo in molti casi definitiva per la lettura. Isabella Ferretti, editrice di 66 and Second, lei quanti libri legge in un mese e quando si considera un lettore forte, un lettore debole, quanti libri legge un italiano in media? Ah, dunque, ci sono degli studi che dicono che in Italia, perché come rilevava Salvatore Carruba, la percentuale di lettori nei diversi paesi varia, anche nei diversi paesi europei, quindi in Italia, stando alle ultime statistiche, è un lettore forte chi legge 14 libri l'anno. Ora, io preferisco non dire quanti libri leggo in un mese, perché leggendo per lavoro falso di molto la statistica. Ma noi vogliamo aspirare a quanto legge lei, e quanto no. Legge Troiano o Carruba. No. Diciamo una, che non cifra per essere presa a parametro, però insomma diciamo che io leggo più di quello che il lettore forte statistico diciamo legge in un anno. Io certamente ne leggo di più in un mese, ecco, per dare un'idea. Quindi lei legge più di 14 libri in un mese? Sì. Lei è sposata, ha dei figli? Sì, io sono sposata, ho due figli. Legge di notte, è sonnambula. Sì, beh, la mattina presto per le letture, la mattina presto e la notte sicuramente. Sì, sono i momenti migliori. Diciamo che le letture però che facciamo noi come editori o comunque chi deve anche scoprire, no, il libro da pubblicare. Scoprire significa anche tra libri pubblicati, no, come nel caso della letteratura straniera. Bisogna leggere anche i manoscritti. Questo significa che arrivano in casa editrice, per esempio, oppure anche proprio alla mia attenzione, no? Si propongono molti autori meritevoli che hanno dei libri che non sono mai, che sono ancora inediti, e naturalmente bisogna andarli a leggere per vedere se qualcuno di questi è meritevole di pubblicazione. Non di rado capita, per esempio, di trovarsi di fronte a un buon libro che magari non è omogeneo rispetto alla linea editoriale del pubblico, del piccolo editore che solitamente non è un generalista, dico solitamente perché alcuni sono anche generalisti. Lei è specializzata in letteratura straniera, mi sembra, no? In letteratura. Noi abbiamo, diciamo, come il nome suggerirebbe, abbiamo senz'altro un DNA molto legato alla narrativa straniera, questo sì, però siamo proprio specializzati in alcuni generi. In particolare noi abbiamo cominciato con la letteratura sportiva, che è un genere che adesso mi sembra stia riscuotendo buoni successi anche in Italia, ma che è un genere molto affermato soprattutto nei paesi anglosassoni, anche se ci sono degli ottimi autori anche francofoni, per esempio di lingua francese, tedesca anche, eccetera. Quando noi abbiamo iniziato non, il genere di per sé non esisteva. Non esisteva. Quindi, insomma, sì. Tornando a quanti libri legge, leggendo anche i manoscritti, un numero non ce lo dà. Sì, le ho detto, almeno io ne considererei almeno una ventina al mese. Sì. Una ventina al mese, Antonio Troiano, responsabile redazione della lettura del Corriere. Tu devi stilare poi la famosa classifica che ti viene data dei libri. Quanti libri leggi in un mese? Abbiamo sentito Isabella Ferretti, è particolarmente ardua da sconfiggere. No, credo che la cifra della... sia quasi impossibile da raggiungere, nel senso che con grande onestà io credo di leggere dai 5 a 6 titoli completi, cioè dall'inizio alla fine, e probabilmente 30-40 libri, però solo in piccole porzioni di 20-30 pagine, e poi la vita di un giornalista è una vita di lettura costante dalla mattina alla sera, di articoli, agenzie, riviste, giornali, eccetera. Lo spazio per la lettura di un libro completo per un giornalista è anche abbastanza frustrante, perché non si trova il tempo, però diciamo si passa la propria vita attraverso i libri, attraverso i romanzi, attraverso la poesia. E se posso aggiungere una cosa, certo. Sull'indice di lettura degli italiani, è vero, è tutto vero quello che ci diciamo, e sappiamo che il mondo dell'editoria passa da anni un momento difficile, c'è però una voce che è quella dei libri pubblicati dai giornali, ad esempio il Corriere della Sera, scusate se parlo del mio giornale, ma è una cifra che stupisce, perché i collaterali del Corriere della Sera, cioè le collane di libri che noi vendiamo, hanno venduto nell'ultimo anno 6 milioni di copie. Stiamo parlando di una cifra incredibile, cioè la collana ad esempio di Pasolini, che abbiamo fatto appunto per l'anniversario di Pasolini, ha venduto circa 20.000 copie a titolo. Sono delle cifre veramente incredibili, e questo vale per Pasolini come vale per altre collane, quella di Sciascia che stiamo facendo, che raggiunge veramente risultati straordinari. Quindi c'è però un aspetto, sono libri da un prezzo molto accessibile. Molto accessibile, portati in edicola con un prezzo di copertina molto basso e che ha risultati di questo tipo. Ora, siccome nessuno di noi è riuscito a trovare l'algoritmo perfetto e sa come si fa a vendere tanti libri, forse una riflessione che va fatta in Italia è sul prezzo dei libri. Salvatore Carruba, quanti libri leggi in un mese? Ma insomma, stiamo facendo così un gioco ferragostiano, ovviamente. E soprattutto abbiamo sentito Troiano è molto ottimista, no? Su queste vendite anche di libri con un prezzo molto basso. Tu invece come la pensi? Dunque, sui libri più o meno mi colloco sulla posizione Troiano, perché ne leggo per mio diletto e quindi vince integralmente la Ferretti. Un 4-5 al mese, e poi ne apro forse anche di più, almeno una cinquantina al mese, più che sfogliati, per capire di che si tratta e fare la mia trasmissione. Su quello che dice Antonio sono relativamente d'accordo, nel senso che sì, il collaterale è un grande successo, lo è sempre stato per la verità nel nostro paese, anzi forse si è un po' sgonfiato il fenomeno che ha interessato tutti i grandi quotidiani negli ultimi almeno 10 anni, sono stati venduti decine di milioni di libri. Purtroppo risulta che delle persone che comprano i collaterali, pochi poi rimangono attaccati al libro, pochi cioè si mettono a comprare libri. È soltanto una questione di prezzo, può darsi, però sì. Il prezzo diciamo più o meno si colloca nelle medie degli altri paesi, quindi non credo che sia proprio soltanto il prezzo a dissuadere. Quindi tu dici praticamente si comprano ma poi si lasciano nello scaffale, ma ci risentiamo a tra poco per la pubblicità. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Ma cos'è quest'estate? E noi continuiamo a parlare di Leggere in Italia tra polemiche di salotto e passioni. Salvatore Carruba, ci dicevi, i libri che si vendono in edicola a prezzo basso, poi la maggior parte finiscono nello scaffale senza essere letti. Però Troiano, della lettura del Corriere della Sera, ci diceva, attenzione, il prezzo è troppo alto. Voglio chiederti, Carruba, ma è vero che l'ebook non ha preso in Italia, malgrado poi comprare un libro su Kobo o su Kindle costa meno di andare in libreria e avere la carta? Sì, dunque sui collaterali preciso non è che la gente non li legga, la gente non viene attratta dall'aver acquistato un libro ad acquistare poi dei libri per così dire normali, dei libri che non siano dei collaterali, questo è il meccanismo che non scatta. Sul prezzo, il prezzo mi pare in media con quello che che costano i libri negli altri paesi, e in un paese abbastanza ricco come nonostante tutto è l'Italia. L'ebook non ha attecchito, non ha avuto un successo travolgente in tutto il mondo. Antonio, con il quale condividiamo un corso universitario allo IULM, condividerà con me la constatazione che gli studenti, per esempio, non sono particolarmente attratti dall'ebook. Se devono leggere, preferiscono leggere il libro di carta ancora. Questo è un segnale sul quale bisogna riflettere. L'ebook non ha sfondato da questo punto di vista. Se la gente prende in mano il telefonino, lo fa per attaccarsi a Facebook, non per leggere un libro. Antonio Troiano, è così? Per esempio, io penso che l'ebook sia molto utile per leggere durante la notte, no? Se c'è il marito o la moglie che dorme, oppure è molto carino quando si legge un romanzo, però poco utile quando si studia un saggio che magari c'è più bisogno di sottolineare. È vero che il rapporto con la carta è sempre più bello, però taglia molto i costi. Sì, no, Salvatore ha ragione secondo me, cioè l'ebook sicuramente non ha sfondato, non solo nel nostro paese, negli Stati Uniti le cifre ci dicono che c'è una regressione, insomma la lettura è ancora, almeno per questa generazione e forse per la prossima, una questione di carta, una questione appunto di avere il libro in una versione che viene posseduta dalla persona. Credo che l'ebook possa avere un suo sviluppo, sicuramente anche una sua importanza nel reperimento di libri che appunto casomai non si riescono a trovare nelle librerie. Detto questo, diciamo, la discussione che facciamo la facciamo legata al libro di carta e non ad altre forme. Francesco Sorti scrive insieme a sua moglie Rita Monaldi molti libri, vive a Vienna insieme a Rita, e in questo momento è uscito Malaparte, morte come me di Baldini e Castoldi. Francesco, la tua esperienza, perché tu sei nato giornalista e poi tu e Rita siete nati giornalisti e poi siete diventati scrittori, avete abbandonato la professione originaria, questo è un grave peccato, però qual è la tua opinione rispetto alla lettura in Italia, visto che tu vivi a Vienna, e rispetto poi a questa querelle sul Salone del Libro? Tu avrai frequentato magari i Saloni del Libro di Francoforte o piuttosto che di Vienna. Sì, diciamo, noi siamo legati un po' al mondo di lingua tedesca, dove la lettura viene tenuta più in conto che in Italia, ma non per forza perché diciamo, i tedeschi siano più colti o più intelligenti di noi, anzi devo dire che i nostri figli per esempio vanno a scuola in Austria, la scuola italiana è ancora superiore alle scuole, diciamo, di tutto il resto del continente. Quello che sta, diciamo, la crisi della lettura che si lamenta anche di tutta questa querelle sulla fiera o le fiere che si devono fare in Italia, deriva un po' da una decadenza dell'interesse più che per la lettura, proprio per il ragionamento. Purtroppo ormai, diciamo, lo smartphone, l'iPhone hanno trionfato. Tutto diventa diciamo volatile, testi sempre più brevi, e la scuola anche la televisione non vanno nel senso opposto. Invece bisognerebbe opporsi a questa diciamo a questo ridursi dei contenuti e fare in modo che la prossima generazione abbia una scuola, un'università e una editoria di alto livello come ce l'abbiamo avuti noi che siamo nati negli anni 60. Antonio Troiano, Francesco Sorti ci sta ribaltando, dice la scuola in Italia è meglio che in Austria. Quindi insomma non tutto è perduto. Io sono da questo punto di vista ottimista, cioè penso che la scuola italiana sia ancora una buona scuola, ci sono sicuramente molte cose che si possono fare, che si dovrebbero fare, innanzitutto diciamo aiutare gli insegnanti ad essere migliori insegnanti di quanto non siano in questo momento, cioè metterli in condizioni di lavorare con più strumenti e anche dare un ruolo sociale più importante agli insegnanti. Ma sono ottimista perché la mia sensazione è che il discorso oggi vada fatto molto sulla qualità di quello che noi offriamo e che si debba avere il coraggio di investire su prodotti di qualità. Ripeto, insomma, mi spiace tornare sulle le cose del mio giornale e quello che abbiamo fatto, ma a me pare che il segnale che abbiamo avuto con un inserto culturale che è passato a pagamento a 50 centesimi, quindi a una cifra minima per carità, ma che è riuscito a raccogliere circa 100.000 lettori a settimana è un segnale importante, ma questo vale anche per altre iniziative. Quindi insomma Troiano, viva il Corriere della Sera, ora ci daranno qui il Sole, ma noi diciamo anche ricordiamo il nostro domenicale del Sole 24 Ore. Ringrazio Antonio Troiano, responsabile redazione della lettura del Corriere della Sera. Francesco Sorti, una domandina su libro Malaparte, sì. Morte come me, visto che è ambientato a Capri, ci sta, siamo tutti gli italiani sono al mare, di che cosa parla? Beh, parla ovviamente del grande Ulpio Malaparte, uno scrittore che oggi andrebbe ripreso in mano da tanti. Se nascesse oggi vincerebbe non un premio Strega ma 5, grande scrittore a cavallo della Seconda Guerra Mondiale che viene incastrato dall'ovra, dalla polizia segreta di Mussolini per un caso di omicidio, la morte strana di una poetessa inglese nel 1935 a Capri, caduta da una scogliera, un fatto vero questo che abbiamo rispolverato dagli archivi. Ovviamente Malaparte non era responsabile di questo omicidio. Noi ci siamo però presi a cuore, diciamo, anche non solo la soluzione di questo giallo che abbiamo investigato poi dal vero sul posto con l'aiuto di periti criminologi, ma anche ci siamo presi a cuore Malaparte, che è stato uno dei pochi scrittori italiani che prima di morire si è chiesto proprio sul letto di morte, ma io che cosa ho fatto della mia vita? E questa famosa crisi di coscienza Malaparte è un po' la leva di tutto il romanzo, in cui lui, cercando di scagionarsi dall'accusa ingiusta di omicidio, ripercorre a ritroso un po' tutta la propria esistenza, che poi sono 30 anni, 40 anni di storia italiana, che diciamo un periodo in cui c'era il fascismo più che strisciante e la paura della guerra mondiale, due fenomeni che ci sembrano molto attuali, che ci sembrano vivi ancora oggi. Quindi Francesco Sorti, Rita Monaldi, Malaparte, Morte come me, Baldini e Castoldi, un giallo storico, come poi vostra abitudine, che ci avete abituato con In Primatur. Isabella Ferretti, visto che l'abbiamo in linea, vogliamo chiederle. Lei poi ha avuto un colpo di genio perché ha tradotto, prima che lo vincesse, il vincitore del premio Pulitzer, William Finnegan, Giorni selvaggi, una vita sulle onde, sempre una lettura che noi consigliamo agli italiani al mare. Di che cosa parla il libro? Sì, noi abbiamo, come lei diceva, abbiamo acquisito i diritti di questo libro prima che vincesse il Pulitzer. Il libro è uscito però il 30 di giugno, quindi non molto tempo fa. Dicevamo, noi abbiamo iniziato con la letteratura sportiva, anche se non pratichiamo soltanto questo genere. Il libro era perfetto per quello che noi facciamo, perché William Finnegan, che ha vinto il Pulitzer nella categoria memoir, nella categoria biografica, racconta la propria vita attraverso l'amore, la passione e l'ossessione per l'oceano, che nel suo caso si è concretizzato nella possibilità di imparare a surfare prima in California, dove lui viveva, e poi alle Hawaii, dove si era trasferito con la sua famiglia perché il padre lavorava in ambito televisivo e gli avevano dato un lavoro appunto alle Hawaii. Lì lui da piccolino è attratto dall'oceano, ma allo stesso tempo utilizza il surf per integrarsi, perché da Aole, che è il termine gergale hawaiano per definire un bianco, era vittima di bullismo. Quindi lui finì per andare in quella che era una scuola dove non c'erano praticamente altri bianchi, e lui si integrò nel gruppo, cominciando a frequentare quei ragazzi hawaiani che surfavano. Ora, da lì il suo amore per la tavola, ma soprattutto per l'oceano, voglio dire, prese delle proporzioni particolari, perché in Finnegan hanno convissuto sempre due anime, quella del surfista e quella del letterato. Lui si è laureato in letteratura e già appunto alle medie scriveva sul giornale della scuola e faceva critica letteraria. Quindi insomma, un libro che ci accompagna attraverso le onde in questo excursus di vita, un memoir di un giornalista, scrittore e quindi William Finnegan, Giorni selvaggi, una vita sulle onde, e abbiamo detto 66nd Second editrice. Denis Pardo, direttore editoriale di Capalbio Libri. Appena finita la rassegna, com'è andata? È venuto qualcuno a sentire, questa è un po' provocatoria ovviamente, le vostre riunioni in riva al mare? Allora, per fortuna sì, quest'anno è stato un anno particolare perché Capaldo Libri ha compiuto 10 anni, e devo dire che in questi 10 anni in cui ho partecipato spesso, sia come all'inizio come una volta come autrice, spesso come spettatrice, altre volte come moderatrice, questa segna è cresciuta poco a poco ed è diventata un punto di riferimento in un momento in cui in realtà uno pensa che vorrebbe dedicarsi allo sport, dedicarsi a delle attività fisiche che mentali. Quindi avete avuto un buon successo anche quest'anno. Abbiamo avuto un ottimo successo, le piazze si sono riempite, e soprattutto abbiamo venduto, ed è questo che ci fa veramente molto piacere, abbiamo venduto ogni volta quasi tutti i libri che erano, perché noi in contemporanea, finita la presentazione, vendiamo i libri, abbiamo venduto 70-80 libri in neanche un'ora, che sono dei numeri per l'Italia eccezionali. Noi non ci fermiamo qui, perché facciamo un'associazione per il piacere della lettura, faremo un talent, perché abbiamo avuto oltre 100 manoscritti di persone che scrivono dei libri e non trovano il modo di pubblicarli, ci occuperemo anche della lettura dei bambini. E questa cosa straordinaria è stata inventata da Andrea Zagami, che con una veramente energia e forza straordinaria l'ha inventata, l'ha portata avanti e se ne occupa naturalmente da direttore anche lui con una grande passione. Denis Pardo, direttore editoriale di Capalbio Libri. Ma Carruba, lo so che sei in collegamento, ma ti voglio far sentire queste piccole innovazioni. Saro Trovato, sociologo e fondatore di Liberiamo, la piazza digitale per chi ama la cultura, che ha inventato un po' il caso dell'estate, Books on the Beach. Che cos'è? Books on the Beach è un'iniziativa social che coinvolge tutti coloro che amano i libri, ma anche quelli che non leggono quasi mai, nel inviare immagini, foto, video direttamente dalla spiaggia, dove il protagonista si è il libro e la spiaggia stessa. Quindi, ma in quale spiaggia? In tutta Italia? Come funziona? In tutte le spiagge d'Italia. Abbiamo la fortuna che l'Italia è ricchissima di spiagge, c'è tantissima gente ad agosto in spiaggia, e magari i libri quest'anno possono diventare protagonisti e diventare protagonisti dell'estate come meritano. Salvatore Carruba, insomma, sappiamo che ci sono molte rassegne estive, c'è anche Cortina, abbiamo sentito Denis Pardo, c'è qualche speranza affinché gli italiani riprendano in mano quei libri che magari hanno nel cassetto e che non fanno in tempo a leggere durante l'anno, ad agosto? Sì, certo, le speranze bisogna sempre coltivarle. Io sono in una spiaggia e mi temo di non poter partecipare al social di Books on the Beach, perché non vedo nessuno con un libro in mano, per la verità neanche con un giornale quest'anno, ho notato. Quindi credo che bisogna fare un lavoro lungo proprio per essere ottimisti e far capire quale sia l'importanza, non soltanto la bellezza e il gusto del libro. Io non partecipo alla retorica che leggere renda per ciò stesso migliori, però credo che bisognerebbe far capire alla gente in tutti i modi che leggere abitua a avere delle proprie idee e quindi a non cadere in quella tirannia anche dei social network di cui poco fa si parlava. Del pensiero breve. Senti, che cosa stai leggendo adesso che ti piace? Consigliaci. Sto leggendo non per ragioni d'ufficio, il premio Strega Edoardo Albinati, la Scuola Cattolica, che non è esattamente un tascabile, no, 1300 pagine, però è un libro che consiglio perché fa capire com'era l'Italia negli anni 70. E poi un libro molto bello che ho letto e lo voglio offrire a Isabella Ferretti è di Dario Crestodina, Secchio distorti, una narrazione della vittoria, dell'unica vittoria italiana alla Coppa Davis, che è particolarmente amara da un certo punto di vista, ma anche divertente e adatta al clima olimpico che stiamo vivendo in questi giorni. Sarò Trovato, sociologo e fondatore di Liberiamo la Piazza Digitale, Books on the Beach. Lei che cosa sta leggendo? Io sto leggendo Ken Follett, I pilastri della terra, un classico. Andiamo sul classico. Sono andato su un classico che merita di essere letto, anche perché molte volte anche la lettura meno ricercata permette alle persone di avvicinarsi alla lettura stessa. Diciamo, i social, sentivo dire, sono naturalmente una tirannia, però oggi non si può fare a meno di comprendere che c'è un dato di fatto dove la gente è immersa all'interno dei social. Quindi se si vuole fare un servizio ai libri, che purtroppo in Italia ahimè non hanno così tanta diffusione, forse bisognerebbe sfruttare qualsiasi artificio, qualsiasi media, affinché la gente possa leggere almeno un rigo in più. E quindi io ringrazio Saro Trovato, sociologo e fondatore di Liberiamo, la piazza digitale per chi ama la cultura, che ha inventato Books on the Beach, e ovviamente il nostro Salvatore Carruba, ricordiamo, conduce un libro tira l'altro ogni domenica alle 22:30 su Radio 24, Isabella Ferretti, editrice di 66 10 Second, una piccola editrice che ha lasciato l'AIE, e Antonio Troiano, responsabile redazione La lettura del Corriere della Sera, Rita Monaldi e Francesco Sorti, scrittori, ex giornalisti, autori di Malaparte, Morte come me, e Denis Pardo, direttore editoriale di Capalbio Libri. A fra poco. Ma cos'è quest'estate? E noi continuiamo questo viaggio per la lettura in Italia tra polemiche di salotto e passioni con Flavia Piccoli-Nardelli, presidente della Commissione Cultura della Camera del PD. Buongiorno, presidente. Buongiorno. Volevo chiederle cosa bisogna fare per far sì che gli italiani tornino a leggere, visto che siamo un paese in cui si legge poco. Stiamo cercando di convincere tutti in tutte le maniere possibili che la lettura è parte fondamentale della crescita di una società civile, e credo dobbiamo cominciare a farlo dai ragazzi, che d'altra parte sono anche il settore che legge di più, il che è un dato piuttosto interessante. Se noi andiamo a vedere il quadro generale, noi scopriamo che negli ultimi anni il calo della lettura nelle famiglie è molto significativo, cioè un meno 18% a fronte di un calo delle spese generali del 6%, quindi non possiamo non tener conto di questo. Su questo appunto c'è un quadro invece in crescita per quella che è la lettura dei ragazzi. Noi lavoriamo moltissimo con le scuole, cercando di spingere su quello che è un riferimento molto importante, che è quello delle biblioteche scolastiche, ma anche delle biblioteche di pubblica lettura, che sono una realtà, come lei sa, che negli altri paesi è un punto centrale nella vita dei quartieri periferici, ma in ogni parte della città. Abbiamo bisogno di quello. Umberto Eco diceva: chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni. C'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito. Allora, lei è autrice, insieme o coautrice, di un disegno di legge, di un testo unificato proprio per la lettura. Che cosa ha intenzione di fare il governo, di fare la maggioranza? È un testo di legge che gode fra l'altro dell'appoggio di tutti i gruppi parlamentari, che come lei può immaginare non è cosa banale. È un tentativo di favorire la lettura prendendo spunto proprio da quelli che sono gli elementi fondamentali che intorno al libro lavorano, e quindi i librai, cercando di aiutare le librerie, le piccole librerie indipendenti a reggere di fronte a una crisi che noi vediamo travolgere moltissime librerie dei centri storici, ma in tutte le città d'Italia. Lavora poi con i bibliotecari, appunto per il discorso che noi facevamo prima, le biblioteche devono diventare soprattutto nelle periferie, centri di aggregazione o nei piccoli centri, punti di riferimento, con le biblioteche scolastiche per cercare di far sì che i ragazzi sentano che il libro, sia cartaceo sia digitale, io su questo non faccio nessuna differenza, ma che la scuola è quello, è un pezzo della scuola, un pezzo molto importante. E poi cercando di fare promozione della lettura attraverso la settimana della lettura, attraverso aiuti anche di sollecitazione di questo genere. Stiamo a buon punto, tutte le commissioni parlamentari hanno dato parere favorevole, stiamo vedendo in commissione bilancio come poterla concludere e io spero a settembre di riuscire ad avere un voto della commissione che sia un voto di tutti i gruppi parlamentari. Quindi sarebbe un primo risultato in un momento in cui lei ha visto il Salone del Libro, il nuovo Salone di Milano, stanno di nuovo travagliando un settore che ha bisogno invece di lavorare con compattezza e con serenità. Questa querela tra Milano e Torino è sembrata molto pretestuosa, perché poi alla fine in un settore che è in crisi addirittura due città importanti litigano. Come finirà secondo lei? Ma io spero che prevalga ragionevolezza ed equilibrio, perché le due realtà sono due realtà molto diverse. Torino con una presenza molto forte degli enti locali e una presenza degli editori all'interno però di un quadro di riferimento istituzionale in cui sono presenti anche il Ministero dei Beni Culturali, il Ministero della Pubblica Istruzione. Milano, che mi sembra di capire nei progetti che gli editori hanno presentato, è proprio una fiera del libro di tipo commerciale organizzato e gestito dagli editori direttamente. Quindi si possono fare tutte e due? Sì, ma io spero che si trovi una forma di equilibrio e di accordo, perché di tutte e due abbiamo bisogno. Io credo che tutto quello che favorisce la lettura e ci aiuta a spingere in questo senso debba essere ben visto. Certo, non fa piacere vedere discutere settori che dovrebbero essere uniti. I librai stanno in questo momento trovando formule di accordo dopo anni di discussioni. Ci auguriamo che gli editori facciano la stessa cosa. In Germania è l'accordo fra librai, editori e bibliotecari che fa la forza di un settore. Cerchiamo di farlo anche da noi. Lei ha detto non importa se il libro è digitale, non importa se il libro è cartaceo. Pensa che i giovani siano più portati all'ebook? Ma i giovani sentono come tutti noi il fascino della carta stampata, il fascino dell'oggetto libro. Nessuno di noi credo è immune da questo. Però sono assolutamente convinta che la lettura digitale vale esattamente quanto l'altra e noi dobbiamo spingere fortissimamente in questo senso. Lei tenga conto che nelle scuole adesso è partito un bando molto interessante che ha coinvolto moltissime scuole italiane per un finanziamento a quelli che sono i laboratori digitali che sono nient'altro che la forma aggiornata di quella che era la biblioteca scolastica di tipo tradizionale. Ecco, io sono convinta che aiutare a leggere, dare strumenti per leggere anche in digitale i ragazzi significa anche metterli in grado di tener conto di quello che sta avvenendo intorno a loro, di quello che cambia intorno a loro. Quindi tutti questi strumenti sono strumenti e vanno usati come tali cercando di ottenere il meglio. Lei, onorevole Nardelli, è del Partito Democratico, quindi il partito di Matteo Renzi. Il Premier è stato criticato moltissimo per questo bonus dei 500 euro ai giovani, ma sta funzionando al di là della retorica governativa, insomma è stato accusato di propaganda, sta funzionando? Lei vede dei riscontri? Io ho visto le prime tessere che sono arrivate ai 18enni e devo dirle che mi ha dato una grande soddisfazione. Le spiego perché. Perché sono convinta che sia questo, sia il bonus che è stato dato agli insegnanti, sempre di 500 euro e sempre per consumi culturali, siano estremamente importanti per noi. Lei tenga conto che noi avremo finalmente, io credo, anche un quadro di quelli che sono i consumi culturali di una fascia, di due fasce importantissime della nostra società, cosa che non abbiamo mai avuto. e danno, a mio avviso, il senso di che cosa è cultura in senso pieno. Cultura non è soltanto leggere, cultura è andare a teatro, è andare al cinema, è andare a un concerto jazz, è entrare in un museo. Quindi consente anche a chi ha 18 anni, ma anche a chi non ha 18 anni, ma deve operare nel mondo della scuola e quindi deve essere punto di riferimento per i ragazzi, dà il senso di che cosa deve essere una cittadinanza piena. Io le confesso che considero questo un'espressione di cittadinanza attiva e sono convinta che noi su questo dovremmo continuare a lavorare. Onorevole Nardelli, è agosto, la gente è in vacanza, allora noi le chiediamo qual è il libro che sta leggendo e quale libro ci consiglia per l'estate? Io sto leggendo in questo momento un libro giallo, leggo sempre più libri, credo come tutti i lettori forti che hanno più libri insieme, quindi sto leggendo l'ultimo libro di Manzini, che è un giallista italiano interessante, bravo, e poi sto leggendo una serie di saggi che sono invece legati al mio lavoro, compresi i libri sulla lettura, come lei può immaginare, e ai dati sul come recuperare la lettura. E quindi quello che è l'augurio che io faccio a chi in questo momento è in vacanza è veramente di avere la possibilità di godere della lettura in senso pieno. È veramente un leggere, un capire, un avere dimensioni molto molto molto più ampie di quella che è l'unica vita, riprendendo quello che diceva Eco, che lei ha citato prima. Quindi il giallo, insomma, le piacciono i gialli, la distraggono anche i gialli. No, perché il giallo va molto in Italia, perché ha un plot, no, poi sempre intrigante. Stanno ritornando addirittura i racconti. Pensa che per esempio per i giovani che si avvicinano alla lettura, il racconto, che è più breve, quindi c'è bisogno di meno tempo, di più concentrazione, ma più raccolta in uno spazio di tempo limitato, sia un possibile inizio? Beh, le confesso che io trovo molto stimolante, lei ricorda l'esempio dei grandi giornali dell'Ottocento, ma anche del primo Novecento, che pubblicavano i grandi romanzieri a puntate. Quindi Oliver Twist, David Copperfield. Certo, e è cosa che abbiamo dimenticato, ma in realtà è il fascino anche di poter seguire giorno per giorno un racconto che si sviluppa su momenti diversi e su episodi diversi. Quindi credo sia interessante anche un esperimento di questo genere per tutti noi. Quindi lei dice, magari ci sarà un nuovo Alexandre Dumas che ci scrive, sì, il Conte, certo, di Montecristo, e magari sì, lo potremmo pubblicare a puntate nel giornale. È un invito anche ai giornali, perché lei sa che sono un altro pezzo, naturalmente, questo del discorso dell'editoria che ha vissuto e vive anche momenti di grande crisi. Cerchiamo di mettere insieme queste crisi e di farle diventare virtuose. Lei sa che addirittura in Israele pubblicano le poesie in prima pagina sui giornali. C'è una poesia, magari ogni tanto un giornale potrebbe riprendere, così da non assuefarci al fatto che la poesia sia morta. Sì, assolutamente, ma è tutto un mondo questo che deve essere riscoperto. Ma d'altra parte, guardi, quel dato che le citavo prima dei giovani dice che i giovani l'hanno già riscoperto questo mondo. Dobbiamo soltanto aiutarli, favorirli, cercare di far sì che, come le dicevo, ci siano dei punti in cui possano ritrovarsi. In fondo io vedo anche in vacanza, la libreria è un punto dove alla fine si raccolgono i ragazzi, i bambini, le persone anziane, soprattutto quando c'è un libraio bravo, riesce a costruire una rete di rapporti e a suggerire anche, ad aiutare. Io credo sia un mondo molto importante anche proprio di coesione sociale che si costruisce. Ringraziamo allora. Quindi, anche un augurio a tutti i lettori. Un augurio a tutti i lettori, e soprattutto abbiamo sentito anche ai librai, che sono fondamentali, sì, per suggerire poi a secondo dei propri gusti. Ringraziamo quindi l'onorevole Flavia Piccoli Nardelli, presidente della Commissione Cultura della Camera e autrice anche di una proposta di legge proprio per favorire la lettura tra i giovani. Buon agosto, allora, buone ferie. Grazie, grazie anche a voi. E anche per oggi è tutto. Ringrazio in redazione Silvi Boccaletti, Luca Cremonese, Massimiliano Lollis, in regia Leonardo Patanè e Alessandro Chiappini. Vi do appuntamento domani alle 8:15.